puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Benvenuti nella libera Repubblica della Zanzara. Caro Parenzo. Sentite la canzone di Tiziano Motti, uno dei nostri preferiti, europarlamentare dell'UDC, che sarà protagonista della grandissima finale. Sembra Vasco Rossi, invece è un eurodeputato dell'UDC, sai, cantano anche i deputati, come sapete. 800 24 00 24, questa è la Zanzara e con noi Vittorio Sgarbi. Vittorio, eccola. Buonasera. Come andiamo? Benissimo. Che stai facendo? Che fai? Niente. Nulla, come al solito. Finendo di allestire la mostra di Tintoretto che inaugura venerdì. Ma ti sei dimesso da sindaco o no? Sì, basta. Sono dimesso da sindaco e le dimissioni sono operative da domani sera. Da domani sera, dunque. Prima che era una cosa, avevi annunciato? No, avevo annunciato le dimissioni, poi ho portato in consiglio comunale e poi sì, ho consegnato le dimissioni a partire dal 21. Sì. Senti, ma alle 21 di domani, sì, giusto? Certo. Dalle 21 di domani. Senti, ieri faremo sera uno speciale dedicato a questo. Ieri sera hai visto Berlusconi. Prima però voglio farti ascoltare alcune delle cose che sono uscite fuori nel weekend, interessanti. Per esempio Bersani, il signor Bersani, segretario del Partito Democratico, il quale ha detto che mia figlia, cioè sua figlia, sì, sceglierebbe la Fornero. Io non capisco questo paragone tra Fornero e la Belen Rodriguez. È un paragone assolutamente ridicolo. E però Bersani ci dice che sua figlia sceglierebbe il modello Fornero. Sentiamo. Adesso non ti arrabbiare, ma tra la Fornero e Belen, per tua figlia chi vorresti come modello? Mia figlia sceglierebbe la Fornero, diciamo. È questa la mia tesi. E quindi lascerei fare a lei, ecco. Poi, certo che siamo passati, adesso faccio questa notazione, no? Eravamo in mezzo a un governo con degli stereotipi micidiali. Se ne frega. Con tutto il rispetto, la domanda non era, però ha fatto notizia e dunque ci può stare anche questo. La domanda era mal posta. Dovevo chiedere non della figlia di Bersani, ma di Bersani. Preferisci il modello Fornero o il modello Belen? Tu Bersani. Avrei voluto sentirti rispondere la Fornero. Credo che avrebbe dovuto mentire con l'ipocrisia più spudorata nel dire che dovendo decidere lui come uomo o maschio, per così dire, avrebbe scelto la Fornero. È chiaro che una donna, dal punto di vista, diciamo, della intesa sentimentale o emotiva, non ha ragione di scegliere una donna rispetto a un'altra, e dovendo decidere scegliere una donna che ha un impegno nel lavoro, nella vita, diciamo, che rappresenta il pensiero, indipendentemente dall'età, sceglie la Fornero perché probabilmente non le interessa lo spettacolo, quindi la risposta è perfettamente comprensibile per una ragazza, ma dovevano rivolgerla a lui. Cercato di capire se avrebbe avuto il coraggio di rispondere preferisco la Fornero. Non credo. La Bindi, Belen senza... Mica, però bisogna dire, un attimo, fammi sentire la Bindi. La Bindi, Belen senza mutande fuori tempo. Che vuol dire fuori tempo, Belen senza mutande? Comunque, quello è un argomento di cui si è molto discusso. Aspetta un attimo, Vittorio, sentiamo la Bindi prima. Potremmo parlare di Belen perché credo che sia, come dire, fuori tempo, cioè non si è accorta che è cambiata un po', ma insomma io penso che l'ha trovato inopportuno, abbia dato, cioè l'ha trovato brutto, di cattivo gusto, perché non l'ho trovato trovato fuori tempo. A bere del whisky. Cos'è fuori tempo e cosa invece è alla page, secondo il presidente del Partito Democratico? La Bindi non è mai stata in tempo, quindi non si capisce a cosa si riferisca. È evidente che quello che si è visto di Belen è un problema che riguarda Rai 1 in prima serata, rispetto al senso del pudore che presuppone che alcune parti siano con pudore coperte. Dal momento che lei ha ostentatamente mostrato questa farfalla e ha determinato il dubbio che addirittura prima serata su Rai 1 fosse senza mutande, dibattito che ha occupato negli ultimi giorni. Ti ha appassionato, Vittorio, il dibattito? Ti ha appassionato il dibattito sulla puttana di Belen? Un dibattito di cui ho sentito molti diversi pareri, e la più parte che avesse invece delle, come dire, molto misurate mutandine legate proprio soltanto al pube. Sì. A me era sembrato che non le avesse. Nel non averle e nel mostrare la parte nuda, che è quella che deve essere per ragioni di intimità coperta, non era né in tempo né senza tempo, semplicemente era fuori luogo. Ma sì, ma insomma, sono commenti. Fuori luogo per la voce, per la bocca, per la parola. Ma come fuori luogo? Ma comunque, guarda, è diventato cattolo il censore. Se ne vedono di tutti i colori. No, non è un censore, ma rispetto a te, conosco la misura del contegno nei comportamenti. Ma come contegno, Vittorio? Ma Vittorio! Non mostrare la patonza. Ma mi pare che sia nulla di strano in questo. Ma perché fai anche Catone il censore? Non è opportuno Rai 1 in prima serata? Dai, da te non me l'aspettavo, Vittorio, su. Non mi aspetti niente perché sei un coglione, quindi c'è poco da fare. Sto dicendo che le regole che sono fatti tutti, compreso il linguaggio della prima serata, escluso la cosa, le regole della Rai. Ma che regole? Ma hai sempre detto le parolacce in televisione. Dico, è inutile che tu faccia sempre quelle battutine del cazzo, risparmiatele. No, non fare battutine è come dico io, punto. No. Vabbè, ho capito, non è che può essere sempre così. Possiamo discutere. E non sono certo io a preoccuparmene, ma se fai il censore. Una cosa provocatoria, per forza, non è il luogo. Ma proprio tu! Tu che sei quello che ha sdoganato la parolaccia in televisione! Proprio tu, Vittorio, che hai sdoganato la parolaccia in TV. Ma vieni qui, la mutandina. L'ho fatto su Canale 5, lo faccio quando mi pare e sono sgarbo. Vi dico, Rai 1 in prima serata ha delle regole che conosciamo tutti. E che siano giuste o sbagliate, sono le regole. Come in chiesa non fai la pipì o non entri col cane. Aspettate un attimo, c'è altra. Se tu ogni volta devi fare le tue battutine, mi annoi, Parenzo. Voglio parlare con Cruciani. Se ancora intervieni sul telefono. Vabbè, però non sentiamo niente, Vittorio. Non sentiamo. Avvicina la bocca alla cornetta. Tipo preciso di regole che vigono a Rai 1. Punto. Allora, sentiamo questa cosa qui. La Santanchè, il corpo è un bene disponibile. Oggi parlare di prostituzione uguale lavoro sembra mettere un dito negli occhi a coloro che sono perbenisti, convinti che il corpo non è un bene disponibile. Ci vorrebbe una trasmissione televisiva per parlarne. Sì, ma il corpo è un bene disponibile, è l'amore che non è un bene disponibile, ma il corpo, ci dobbiamo rendere conto che il corpo è un bene disponibile, è l'amore che non è un bene disponibile. E quindi non possiamo continuare a non fare mai niente perché arriva qualcuno e dice no, il corpo non si può vendere, le patologie. Santanchè è molto chiaro. Quelle dei figli. Il corpo è un bene disponibile, la Fornero invece è offesa dalla televisione. È offesa dalla televisione, questo qualche giorno fa, l'abbiamo ripescato. Non si capisce perché sia offesa dalla televisione, perché offre dei modelli che non sono... Sentiamo. Sì, qualche volta io mi sentivo offesa. Il modo migliore di reagire è quello di girare canale o spegnere del tutto, che è sempre forse la pratica più salutare. Noi abbiamo sicuramente passato dei limiti di buon gusto, di buona educazione. E qualcuno parlava prima l'esempio. L'esempio io credo che conti molto. La televisione dà esempi quotidiani, pervasivi, e quindi dare cattivo esempio sicuramente fa. Bah, cattivo esempio. A me, quando un ministro va a dire in giro la televisione dà dei cattivi esempi, poi non entra nei dettagli, eccetera, non mi piace mai. Io adoro la Fornero per quello che fa. Quando parla di televisione, francamente, se ne potrebbe anche fare a meno. Come si può fare a meno dei vincitori del Festival di Sanremo, i quali dicono che i politici ci devono dare una speranza, come se i propri destini debbano necessariamente passare attraverso quello che fanno i politici. No, però, la signora Emma Marrone non dice una sciocchezza, che farebbe, ha ragione. Meglio, che farebbe meglio a cantare piuttosto che a discettare. Ma perché non può esprimere opinioni. Sì, ma i un grande cantante, scusami, che ha consenso, caro Parenzo, che fa opinione. Ma che frase è? Ci devono dare una speranza. Beh, ma che vuol di un dire? Sogno di disegnare un paese. Di ma questa è una visione comunista, ma secondo la quale il governo dal governo e dai politici discende. Perché il tuo Obama destino. Non ha regalato un sogno agli americani. Sì, infatti, giusto o sbagliato che sia. Emma, sentiamo. Come i miei amici che vivono nel Salento, con i quali mi sento e conosco le difficoltà, perché non ho anche le mie, i lavori che vanno e vengono, gli stipendi ridotti al minimo, però sono anche dell'opinione, e la canzone parla proprio di questo, che sicuramente non dobbiamo abbatterci, ma anche è vero che questo paese deve darci comunque l'opportunità almeno di crederci, almeno. Poi ognuno deve metterci del suo, però una speranza per tutti. Beh, belle frasi originali, soprattutto. Secondo me ha ragione. Ci devono dare una speranza. Ma perché Vittorio non ha regalato un sogno agli abitanti di Salemi, ad esempio, quando si è candidato a sindaco? Ha regalato un sogno di far diventare quella città che nessuno conosceva una grande città internazionale. Vittorio ha regalato generosamente un sogno anche ai suoi. Vabbè, la Littizzetto, un attimo solo, Vittorio, la Littizzetto. Dov'è? Ti ha dato via, sei incazzato. No, è qui. Hai regalato un sogno o no, Vittorio? Su Giovanardi, un attimo, fatemi. Non l'ho pensato in questi termini, ma certamente ho fatto quello che altri non avrebbero fatto. Forse questo può essere l'aspetto positivo della dichiarazione della Marrone, che è un po' populista o come dire legata ai luoghi comuni. Ha detto l'altro giorno che fare il cantante è come fare l'operaio, un mestiere come un altro. È passo molto bello e grazioso invece l'intervento del ragazzino che ha vinto l'opera prima, il quindicenne, che ha detto: io anche se non avrò una grande carriera, mi è bastata questa fortuna che ho avuto. È stato delicatissimo. La Marrone è vagamente ideologica, non voglio dire con questo che no, per carità, però certamente quest'idea dell'esempio della missione. Io in realtà non ho pensato di dare un esempio. Vittorio, un attimo solo, però fammi una cosa che mi sembrava inevitabile. Fammi sentire la Littizzetto su Giovanardi, scatenatissima contro Giovanardi, questa presunta frase, poi non si sa bene la registrazione, eccetera eccetera. Littizzetto su Giovanardi. Hai sentito cosa ha detto Giovanardi? Quella dei baci, sì. Deve farsi curare da un analista bravo anche in fretta, perché sennò davvero. Ma c'è questa ossessione dei gay che finisce come Tony Perkins in Psycho, travestito da sua madre a assassinare gli omosessuali. Ma come, cosa vuol dire? Se che quando vedi, cioè se tu vedi due donne che si baciano, uno che fa pipì è la stessa cosa. Ma se non hai gli occhiali è la stessa cosa. Se hai bevuto la grappa al posto del Gatorade è la stessa cosa. Se ti sei fumato delle cose che fanno vedere le magie, altrimenti non è la stessa cosa, Giovannone Coscialunga. Bene, dopo il traffico Sgarbi ci racconterà tutto sulla questione delle liste civiche. Le liste civiche al posto del PDL. Berlusconi vuole fare scomparire il PDL perché è in caduta libera. Chissà, traffico. Siamo qui, 800 24 00 24. Ricordo che dalle 19.15 saremo in diretta su TGCOM 24. Come no? Sempre su Radio 24, naturalmente, perché in macchina, perché a casa, per chi, come dice Parenzo, è ovunque a sentire la radio. E allora, Sgarbi, che succede? Berlusconi vuole cancellare il PDL, fa bene? Prima di arrivare lì volevo commentare un attimo la battuta della Littizzetto, perché è vero che è facile prendere in giro Giovanardi, ma è anche vero che le ragioni di cui parlavo prima, polemizzando con Parenzo sulle regole di Rai 1, valgono anche per alcuni comportamenti di comune senso del pudore. Allora, è vero che fare la pipì per strada la fa un uomo, la fa un cane, è una cosa che si può pur fare, ed è vero che due uomini possono baciarsi per strada e si può pur fare. È vero che la cosa però è come il matrimonio per me è negativo anche quando è tra un uomo e una donna, e anche il bacio che non sia affettuoso ma come dire dichiarato, esibito in mezzo alla gente, di un uomo e di una donna, mi sembra che sia meglio non esibirlo in quel modo e tenerlo per la propria dimensione privata. No. Vittorio, che noia lo Sgarbi antilibertario, guarda, ti conoscevo diverso, che noia. Libertario, ma tu. Che noia, allora, che noia. Hai visto Pannella baciare qualcuno in pubblico? Ma che c'entra? Il contegno, voi siete una generazione disperata che confondete il piacere, l'arbitrio e il divertimento con alcune regole che ci sono. Ma cioè, non ho capito, due persone che si baciano appassionatamente in pubblico, tu due uomini baciarsi e anche un uomo e una donna baciarsi è lecito, non è che è obbligatorio farlo per forza, è ostentazione esibizionistica. Ma che ostentazione? Se uno la vuole fare, cioè non ce n'è bisogno. Non c'è bisogno. Ma come c'è bisogno? È un gesto d'amore, d'affetto. Ma non è come fare la pipì per strada, no? Non è farlo per strada, allora puoi fare la pipì per strada. Ma cosa siamo, a Teheran? Siamo finiti a Teheran, Vittorio, improvvisamente. Ma io non lo so, ma siete veramente. E la buona educazione è stata inventata in Italia. Ma che c'entra la buona educazione con un bacio? La buona educazione. Sei come Khomeini. Non ho il problema di fare una multa. Sei come Khomeini. Non ho il problema di cattiva educazione, di mancanza di senso. Vittorio, ma stai scherzando, spero. Sei diventato Khomeini. Vittorio Sgarbi Khomeini. Come Pannella non baciano nessuno in pubblico. Vittorio Khomeini. Gay Pride. Vittorio Khomeini. Khomeini. Vittorio Khomeini. Queste sono delle battute idiote. Tu sei un maleducatissimo. che, ma... come si sa, fai cose molto maleducate e quindi puoi anche pisciare per strada. Non prenderai una multa, ma è meglio non farlo. Ma che? Ma perché? Vabbè, però, però scusa, perché non puoi paragonare... Giovanardi, non nel dire che la cosa è penalmente rilevante, indica come la Fornero... Che non ha detto, peraltro. Come la Cancellieri, come la... Dillo a Monti, chiedi a Monti se sarebbe, che non è come Ini, favorevole a vedere due uomini che si passano per... Ma che domanda è? Penso di sì, penso di sì. Lo fanno a casa loro, dico meglio, e lo ripeto, e ha ragione Monti, meglio farlo a casa propria. Ma veramente Monti non l'ha mai detto una roba simile, una sciocchezza simile. Provate a chiederglielo. Ma non... Voi confondete la buona educazione con la libertà. Ma che c'entra la... Ma che c'entra la buona educazione con un bacio? Questa è ostentazione. Scusa, Vittorio, Vittorio, hai portato... hai portato una ex pornostar alla Camera dei Deputati, ma e di mi dici che è ostentazione baciarsi in pubblico? Ma non mi hai detto che era un comportamento corretto, poi perché non devo portare una pornostar? No, ma per me fai benissimo. Per me fai benissimo. Per me fai benissimo. Imbecille, è stata eletta Vladimir Lussuria, imbecille. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Non vuol dire... non è che la pornostar si fa dei ditalini in pubblico, però. Imbecille. No, ma cosa c'entra? Ma non è la stessa cosa che baciarsi. Ma Vittorio, a un livello così basso che non vale la pena di parlare con voi. Ma esiste, parlate con qualcun altro. Aspetta, ma scusa, aspetta, un attimo. È impazzito, è impazzito. Finisce sempre così. Cioè io veramente mi stupisco perché detto, voglio un bene, scusa, a Vittorio pazzesco. No, scusa un attimo, poi chi ha paragonato il bacio a una, a un, che ne so, un, una cosa sessuale? Ma no, sì. Nessuno ha detto che magari fare l'amore in pubblico va ma bene. Ma certo, ci mancherebbe nessuno altro. Lo dice, stiamo parlando di un bacio, di un bacio. E dice che è uomini, cattiva educazione. Donne, eterosessuali, omosessuali, non ce ne frega niente. Sì. Vabbè. Sandro da Venezia, buonasera, 800 24 0024. Mi dispiace, poi si arrabbia sempre. Pronto? Vada, Sandro. Sì, buonasera intanto, un saluto a tutti quanti. Beh, intanto volevo dire che una come Belen non è mai fuori posto, non è mai fuori tempo intanto. Mm. Questo per rispondere alla signora Bindi? Sì, questo per rispondere alla signora Bindi. Dopo, adesso vabbè, io avevo chiamato ancora un paio di giorni fa, sono stato chiamato stasera, adesso magari il mio intervento è fuori tempo. Lei può parlare di quello che vuole, Sandro. Lei può parlare di quello che vuole. Avevo chiamato che c'era quando era ospite l'onorevole Rutelli. Perché veramente, veramente quell'uomo è incredibile. Cioè, mi aveva veramente fatto arrabbiare perché non è possibile. Forse crede, considerano, ma non lui, credo un po' tutti i politici, considerano l'italiano medio un deficiente, io credo. Cioè in che perché senso, scusi, uno... non ho capito, cosa non le è andata a genio? Ma no, perché quando gli si chiede, che tutti quanti gli hanno chiesto, voi compresi, gli avete chiesto come mai non sapeva dei tre famosi 13 milioni di euro e questo e quello e quell'altro, dice ma io non sapevo niente, ma io non so se è peggio che li abbia rubati, che ci fosse anche lui che se li ha intascati, o che non sapesse niente, io non so sinceramente cosa è peggio. Vabbè, il giudizio però deve essere solo politico, e comunque lui ci ha spiegato che i segretari dei partiti non controllano i conti correnti e nemmeno i bonifici che fanno i tesorieri. Benissimo. Corrado da Milano, buonasera. Benissimo, oppure malissimo, dipende. Corrado? Buonasera, buonasera. Vada. Il mio intervento è parlare un attimo il Parenzo, che tra l'altro mi è anche simpatico, però ultimamente quasi tutte le puntate si prende o del pirla o del coglione o del deficiente o del cretino, come la casa della Fantasia, della Sant'Anchela l'altra sera. Secondo me si parla di cose dove poi certe volte dice le stesse cose dell'interlocutore telefono, solo che poi Parenzo si mette dentro delle battute del cazzo che uno... Calma, ecco, allora eccolo qua. Per esempio Khomeini, uno può dire Khomeini, ma lo può dire una volta. Parenzo l'ha detto 43 volte. Ma io scusi, ma lei vuole insegnare, vuole insegnare a Parenzo come fare questo mestiere? Quanto insistere, quanto non insistere, quante volte dire Khomeini a Sgarbi? Pronto? Vittorio? Però l'altra sera, discorso anche della Sant'Anché, si parlava di una cosa, no? La Sant'Anché la pensava in una maniera e voi in un'altra. Era giusto che voi la pensavate come volevate, ma il problema qual è? Il problema è che poi Parenzo inizia champagne e ballerine, certo. La politica non è... Ma cosa c'entra con quello che si sta parlando? Allora lì la telefonata... C'entra. ma non è vero, no, c'entra. Luciani, io ascolto tutte le storie. Era una polemica con la signora Santanchè. Era semplicemente una polemica. Scusi, ma perché vuole insegnare a Parenzo come fare le polemiche con gli interlocutori? Va bene, lei può piacere o non può piacere il modo in cui lui incalza le persone che vengono qui ai nostri microfoni, va bene, per carità, ci sta, però è un modo suo, io ne ho un altro. Non ha più importanza, cioè si può parlare di sfiga, di benzina, di religione, di tutto, che poi lui si butta dentro sempre delle... Io sono uno che dice sempre minchiate e battute, ma lui per forza, l'interlocutore, risponde in quella maniera là. Va bene, Corrado, se gli piace così, gli piace la così. Risponde come gli pare. Bene, Massimo da Massa Carrara, buonasera. Ma è tornato Vittorio, forse? No, è occupato. Massimo, non c'è? Biagio da Napoli. Buonasera, dottor Cruzani. Vada. Senta, io volevo parlare di quello che stavo ascoltando prima, con del discorso che stava facendo con Scarpi. Secondo me, vedere Belen in prima serata con quello spa, eccetera, non è stata una visione che ha dispiaciuto, anzi, secondo me, per gli esteti, per le persone che comunque. Vabbè, a lei è piaciuto, come credo al 90% delle persone. Perché secondo me non è offensivo, cioè non è che si è visto chissà cosa di offensivo. Secondo Sgarbi non è opportuno per Rai 1, dice Sgarbi. Dobbiamo dare la linea al giornale radio, torniamo dopo. 800 24 00 24. Bene, caro David. Bene, molto bene. Cari ascoltatori, siamo in diretta, come sapete, anche su TGcom 24. Da adesso? Da adesso, dunque benvenuti ai telespettatori di TGcom 24, ma naturalmente continuiamo sulla radio, come è ovvio. No, cioè io ho sempre la giacca. Sì. Ho sempre la giacca, per chi ci sta ascoltando via radio, sono naturalmente parecchi, io sono sempre in giacca, quasi sempre in giacca, non per la televisione. I titoli del TG3. Molto bene. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Monti, sul lavoro andremo avanti anche senza intesa, meno tasse grazie alla lotta all'evasione, domani online gli stipendi dei ministri. Lavoro, confronto in salita, governo sindacati sui nuovi ammortizzatori, le imprese, cassa integrazione per almeno 2 anni, Napolitano serve un nuovo welfare. Bersani, la priorità non è l'articolo 18, vertice del PDL con Berlusconi sulle prossime amministrative, Frattini è ospite del TG3. Conto alla rovescia a Bruxelles, l'Eurogruppo verso il sì al prestito salva Grecia, iniziativa d'Italia, altri 11 paesi per il rilancio della crescita. La magistratura indiana dispone 3 giorni di fermo per i 2 militari italiani coinvolti nella morte di 2 pescatori, rischiano l'incriminazione per omicidio. Donna legata su una barella in coma da 4 giorni al Policlinico Umberto I di Roma, la denuncia di Marino e Gramazio, il ministro Balduzzi invia gli ispettori. Muore a 98 anni il Nobel per la medicina Renato Dulbecco, pioniere nella lotta contro il cancro, fu tra i primi a conoscere i segreti del DNA. Allora, abbiamo già un ospite collegato, caro Parenzo. Ah, sì? Sì, collegatissimo, un ex ministro, tra poco con noi. Prima però voglio farvi ascoltare. Quale mostruosità propone, signor Luciani? Una mostruosità, una cosa terribile. Tremo sempre, perché una cosa lei... terribile. Ah, sì, Don Mario, sai, il prete citato da Celentano nell'ultima serata, Don Mario, il quale vedevo Dio dentro i suoi occhi. Ecco, vabbè. Dio dentro gli occhi di Celentano. Se gli piace, è difficile. Così. Beh, il concetto di sacro, però, è un concetto. Sentiamo. Da sviluppare. Io ho seguito la prima sera molto profondamente Celentano, perché sono riuscito a entrare nel suo intimo tramite i suoi occhi. Ho capito che lì c'era una presenza forte di Dio che parlava in quel momento, perché al di là della cornice del suo discorso, sbagliatissima, errata, ma lui ha fatto una domanda di fondo, che è la domanda dell'uomo vero, la domanda di Dio. Allora, come si faccia a vedere... Non faccia ironia. No, come si fa a vedere Dio dentro gli occhi di Celentano, solo il simpaticissimo Don Mario può rivelarcelo. Perché lei non ha spiritualità, il senso del sacro, lei ha l'eclissi del sacro. Molto poca, effettivamente, molto poca. È di un cinismo sfrenato. Un'altra mostruosità. Sì. Posso intanto far vedere agli amici di Mediaset, guarda qui. Che cos'è? TGcom 24, non per chi ci ascolta la radio, faccio vedere il tuo nuovo idolo, Pier Silvio. Poi adesso posa quella roba, la rissa, la russa contro un telespettatore da Chiambretti. Sentiamo. Io sicuramente lo farò dove sono più comodo. Semplicemente non ho compreso quindi perché suo figlio ha cambiato apposta la residenza per sostenere l'avvocato. Non solo suo figlio, non solo suo figlio, ma anche altri componenti del suo partito. Altri componenti del suo partito, alcuni suoi ex colleghi. Evidentemente sarà una direttiva del partito. Che cazzo dice la risposta di La Russa? Un po' irritato. Alla contestazione irritato. Sul fatto che suo figlio, forse altri familiari, sono andati a fare l'esame d'avvocato in quel di Catanzaro. Non è l'unico. Non bene. È l'unico che è andato al sud. 800 24 00 24, è con noi Giancarlo Galan. Buonasera. Dov'è? Buonasera a voi. Dove come andiamo? Sono a Roma. A Roma. Beh, lo sappiamo, era in treno prima, adesso. È arrivato tutto sano e salvo, Galan, tutto bene? Perfetto, treno assolutamente puntuale. È lei che ha preso doveva prendere quello prima, invece ha preso quello dopo, però insomma forse non interessa molto questo aspetto, no? Ha mangiato quei salatini che offrono lì in genere in prima classe, quei salatini un po'. Lei prende la prima o la seconda, signor Galan? Ecco. Dipende. No. Perché io lo vado a prendere a Bologna il treno. Ma dica la verità. Beh, che c'entra? Va a prendere a Bologna, che non si può prendere la prima classe. Ma perché da Bologna non c'è più la prima classe quando a Bologna a Roma? Sì, ma ci sono treni diversi, perché da Padova a Bologna c'è un treno. Sì. E da Bologna a Roma ce n'è un altro. Quindi in genere prendo la prima. In genere prende la prima. Tra l'altro, lei, non essendo deputato, se la paga pure da solo la prima classe. No, certo. E come no? No, cioè, non c'avete il l'ovetto parlamentare, quella. No, no, io non c'ho proprio nessun ovetto. Me la pago io. Se la paga così anche quando era ministro, eh. Ministro, sì. Però c'erano i rimborsi quando era ministro, no? No, no, no. Non è un po' complicato il meccanismo, ma se un ministro non è parlamentare, non ha i rimborsi, gli ovetti, come li chiamate voi, non so se si chiamino ancora così, sono collegati alla funzione di parlamentare, non a quella di ministro. Insomma, è uno sfigato un ministro. Un ministro non parlamentare è uno sfigato. Possiamo dirla così, in modo un po' forse brutale. No, fa esattamente il contrario, fa la cosa più bella del mondo e soprattutto ha tempo a disposizione da dedicare al fatto che fa il ministro e che non deve andare a pigiare i bottoni in Parlamento. Certo. Senta, ma quindi questi ha più tempo. Sì, senta una cosa, ma lei ha detto nei giorni scorsi che le tessere del PDL sono un po' tutte finte, ma le ha viste quelle foto incredibili del signor Berlato, che è un europarlamentare del PDL del Veneto, una persona che lei conosce molto bene, con quella pila di tessere, 16.000, che ha raccolto nel tempo, nei giorni scorsi, insomma, per accaparrarsi, naturalmente, credo in modo legittimo, la carica di segretario di non so che cosa. Lei ci crede che lui ha raccolto 16.000 tessere, il signor Berlato? Non mi interessa più la vicenda, quella vicenda mi ha rastrestato. Perché? Perché è la prova che non siamo riusciti a cambiare fino in fondo, è un po' quello che è sempre avvenuto e che continua ad avvenire, è un po' quello che avveniva 30 anni fa e che è necessariamente collegato all'idea di un partito basato su questo invece che sulle idee. Noi gli anni in cui siamo andati meglio non avevamo neanche un iscritto. Sì, quando il partito, ecco, quando andavamo meglio, lei dice non avevamo nemmeno un iscritto. Io sai che su questa cosa, Parenzo, sono d'accordo al 100% con Galan. Ma cos'è questa storia dei congressi, le tessere? Sembra roba Galan, si può dire, sembra roba degli anni 60, 70, roba da Ma non lui li vuole i congressi. Sovietica, no? Galan vuole i congressi. Ma no, vuole un partito dice più aperto. Dice che questo PDL non gli piace. Gli piace la Forza Italia del 94, quella dei migliori cervelli, Galan, o no? Sì, certo, questo, ma a parte questo, io guardo anche ad altri esempi attualissimi in giro il mondo. Per esempio, negli Stati Uniti i partiti che sono forti raccolgono in modo trasparente i soldi, sono vicini ai cittadini quanti ci sono, ma non hanno neanche un iscritto. Ma non bisogna avere manco un... Ma che è questa storia che uno si deve iscrivere al partito? Vabbè, è un modo di appartenenza. Me lo dica lei, una roba vecchia, Galan, mi dica, iscriversi al partito oggi è una cosa da sfigati. Questa è una è buona. Questo è buono, sì. Dica questo che è buono. No, non lo dico questo, perché non è così. Se l'iscrizione esprime un senso di appartenenza, una volontà di esprimere un'adesione, una volontà anche magari di versare una cifra in modo trasparente e palese, ben venga. Se invece solo l'espressione, solo negli anni in cui ci sono i congressi, solo per... allora è una cosa vecchia, una cosa d'altri. Ma lei oggi, però, Galan, vorrei guardare oltre. Ecco, ma lei oggi si iscriverebbe al PDL oggi, lei? Ma Cioè, io sono iscritto al PD. Sì, ma lei oggi dovesse iscriversi al PD, lo farebbe? Ma certamente sì. E lo voterebbe? Sì. E lo voterei, e come no, se non lo voterei, lo voterei sì. Ma perché Berlusconi lo vuole cancellare allora e fare le liste civiche? Perché è in caduta libera nei sondaggi, insomma, questo no, mi pare chiaro. Ma io credo che quando si vota le amministrative non deve essere un feticcio avere il simbolo. Possono essere situazioni diverse alle quali ci si può adattare. Io dunque a queste amministrative sarebbe giusto anche ma togliere tutte, il simbolo del PDL? A tutte le amministrative, io sa con che simbolo mi presenterei, ma con che? Con quale? Con Forza Italia. E vediamo cosa succede. Beh, addirittura con Forza Italia. Tornare a Forza Italia. Vabbè, lei non è che... facciamo una prova. Ma questa è buona, però. A questa, alle prossime elezioni amministrative, le propone: torniamo con Forza Italia, facciamo una prova. Sì, questo è buono, eh? E come glielo spiega agli ex Aennini? Agli ex Aennini, come glielo spiega lei, scusi? Beh, non c'è bisogno di spiegarlo, anzi ci sono molti ex Aennini che sono assolutamente d'accordo che con due liste separate, in due liste, avremmo raccolto più consenso. Dunque, lei dice, per questa elezione amministrativa facciamo un esperimento, torniamo a Forza Italia e poi gli altri facciano quello che vogliono. Ma facciamo una prova, facciamola in una città. Interessante. Una prova non sarà mica una tragedia, no? No, ma figuriamoci, no, assolutamente. Ma stasera lei non va, evidentemente no, a Villa Gernetto, dove Berlusconi ha raccolto un po' di amministratori locali, no? Non è stato invitato. C'è questa cena importante stasera con Berlusconi? No, io non amministro niente, quindi. Non è stato invitato, no? Ma non le chiamano più consigli? Ma non la chiamano più? Non... Consigli, cose, non le chiedono più niente. Solo noi le telefoniamo sempre. Solo noi le chiamiamo, grande. Come siete buoni voi, nessuno c'è in Italia. Ma la chiamano ancora? Senta, sì, no? La chiamano? Sì, ma certo, quando ci sono le cose che mi possono riguardare, mi chiamano. Non si sente un po' abbandonato lì in Veneto, vicino a Padova, in quella villa Cinto Euganeo, da solo? Guardi che è un bel posto, l'ho scelto io, non mi hanno obbligato, non mi hanno mandato al confine. Beh, oggi sta a Roma, oggi sta a Roma. Però è un po' la sua isola d'Elba, no? Possiamo fare questo paragone, forse. L'isola d'Elba di Galan. Cinto Euganeo è la mia isola d'Elba. No, mai nessuno ha scelto deliberatamente di essere confinato all'isola d'Elba. Io me la sono scelta, io quella casa lì ci sto benissimo. Senta, ma Galan che vuole fare nel futuro, il signor Galan? Si sta guardando intorno, sappiamo. Politica. Politica, ma cosa vuole fare? Che incarico le piacerebbe? Quella passione ormai, ma quello non si può dire, non avrei mai pensato di fare, che ne so, il ministro, di fare 15 anni di presidente della regione. Faccio quello che è utile, sperando che sia l'unica cosa. Però in Parlamento una vuole cosa, tornare, vuole andare in Parlamento la prossima. È una cosa nuova, perché Forza Italia, si guarda sempre avanti. Ma il sindaco, lei dice che bisogna guardare avanti e poi ripropone Forza Italia. Ripropone Forza Italia, Forza Italia è stata la cosa ed è tuttora, sarebbe tuttora la cosa più innovativa, più fantasiosa, più avanzata, più straordinaria della storia della politica. E dunque che lei dice, è inutile inventarsi liste civiche, nomi strani, basterebbe riproporre Forza Italia. Secondo me andrebbe fatto quella prova. Benissimo. Dopodiché le liste civiche, per l'amor di Dio, non credo. Basta che non ci sia il simbolo del PDL, lei dice. Il simbolo del PDL morto. È morto. Possiamo dire è morto. No, in qualche altro caso può anche darsi che convenga il PDL, ma insomma le elezioni amministrative sono diverse da quelle politiche. Dunque, alle amministrative mettiamolo da parte questo simbolo, no? Mettiamolo da parte. Io dico facciamo una prova. Di quello che può sembrare un ritorno al passato e invece un ritorno al futuro. Ottimo, grazie. Grazie Galan. Buona serata. Buona saluti, serata. Baci Roma, e abbracci. Via D'Alessio è andato a Roma. Pubblicità 800 24 00 24 e poi torniamo. Bene, 19.35, torniamo, 800 24 00 24. Si è tolto la giacca, Crociani, siamo ancora in fascia protetta. Sì, ma allora le persone lo dico che sono alla radio non è che notano queste cose. Lei fa bene a dimenticare che c'è anche questi ci sono anche le telecamere, i potenti mezzi del TGCOM 24. Benissimo, allora c'è anche sbottonato proprio il petto. Caldo. Sento caldo. Una delle frasi del giorno è quella della Sant'Anchè, la voglio far riascoltare. La Sant'Anchè è sul corpo disponibile. Cioè la disponibilità del proprio corpo, secondo me ha ragione lei. Ha ragione lei, che male c'è? Non c'è nulla di male, il corpo è un bene disponibile. Sentiamo. Santa che? Oggi parlare di prostituzione uguale lavoro sembra mettere un dito negli occhi a coloro che sono perbenisti, sì, convinti che il corpo non è un bene disponibile. Ci vorrebbe una trasmissione televisiva per parlarne. Sì, ma il corpo è un bene disponibile, è l'amore che non è un bene disponibile, ma il corpo, ci dobbiamo rendere conto che il corpo è un bene disponibile, vabbè, è l'amore che non, cioè, è un bene disponibile. Non so disponibile. Se vada bene. Diciamo, e quindi non possiamo continuare a non fare mai niente perché arriva qualcuno e dice no, il corpo non si può vendere, le patologie. Santa, che è molto chiaro. Bene. Vabbè. O male. Se le piace così, che ti dico? Martone, voglio sentire Martone. Michelle? Michelle Martone. Il signor, sì, Michelle Martone. Io adoro il signor Martone, il signor Michelle Martone. Sì, a parte quella fase sugli sfigati. Bellissima, stupenda. Il suo stupenda. Cinismo. Stupenda quella fase. Il solito cinismo di Cruciani. Stupenda, meravigliosa, perché tu hai il coraggio di dire che chi arriva fino a 28 anni senza lavorare solamente... solamente studiando, per modo di dire, all'università magari qualche materia poco probabile, è non è uno sfigato. È l'insieme di una serie di frasi che alcuni ministri di questo governo, i sottosegretari hanno voluto, fanno benissimo, hanno lanciato, fanno benissimo. Che i giovani non si vogliono muovere, vogliono stare vicino a babbo e a mamma. Giusto, è vero, è così. Ma cos'è così? Ma come si fa a spostare uno che guadagna 800 euro al mese, Cruciani? Ma di che parliamo? Questi sono bravi a fare i tecnici ma vivono fuori dal mondo. Comunque. L'auto di servizio è una mancanza di libertà. Martone. Io guadagnerò credo attorno ai 170.000 euro lordi e quindi ne pagherò 70.000 almeno di tasse. Per visto che lei mi incalza, per essere trasparenti, io ho una casa di proprietà, un motorino ed una smart. Questi sono i miei beni principali. Adesso però il motorino non si muove più perché c'ha la macchina di servizio. Purtroppo no, e quella è anche una mancanza in qualche modo di libertà. Beh, si può sempre rinunciare all'auto di servizio. Sì, no? Non è che ti obbligano con la pistola. Nessuno, dice, è, obbligato, devi, nessuno è obbligato. O forse sì. Eh? O forse sì, che ne sappiamo. Non so se proprio un sottosegretario. Non è il ministro degli interni. Il ministro degli interni, credo, ovviamente ha bisogno di. C'è un'altra frase di oggi del signor Monti che mi è piaciuta molto. Poi ci siamo invertiti le parti qui. Perché tu, sì, tu all'inizio del governo tecnico eri molto critico, io invece molto. Invece adesso a me piace sempre se va fino in fondo poi. La riforma del lavoro bisogna andare avanti comunque, a prescindere dall'accordo con i sindacati. Ascoltatori, fra poco un altro ospite. Dove andiamo? Andiamo a Asti, Angelo. Buonasera. Buonasera. Vada. Niente, volevo parlare dell'intervento che ha appena fatto Sgarbi con voi. Sì, intervento. Intervento per modo di insomma, dire. Sì, insomma, con la specie di... Insomma. Allora? Siccome dei seri dubbi su Sgarbi li ho sempre avuti, sì, e secondo me... Da che punto di vista? Dubbi su cosa? Sulla sua sincerità, secondo me Sgarbi è un grande attore che recita, ma no, ma intellettuale, il politico e tutto. Ma allora scusate, una cosa nuova. Siete abbastanza attenti. No, ma guardi che lo dicevo in modo ironico. Ho detto che lui ha iniziato la sceneggiata quando voi gli chiedevate su Salemi. No, perché mi stupisce che non ci siate arrivati. Vabbè, allora insomma, vada al sodo. Vada al sodo, vada al sodo. Il sodo è che questo. Che qual è? Non ho capito. Il sodo è che la politica italiana è molto bene rappresentata dal signor Sgarbi e da tutti quei signori che si riempiono la bocca di politica e che però in realtà si dimostrano alla fine degli opportunisti, perché non perdono, cioè chi li guarda attentamente se ne rende conto senza nessun problema. Bene. Ogni volta che sono in difficoltà mettono la cosa in cacciara per rafforzare il loro personale. Però non mi sta dicendo nulla di nuovo sul signor Sgarbi, cioè non è che sta dicendo qualcosa di straordinario o qualcosa di particolarmente originale su quello che sul modo in cui Sgarbi si rapporta con il teleschermo, con la radio in questo caso. Roberto, provincia di Monza, buonasera. Buonasera. Vada. Volevo intervenire a riguardo dell'ironia su Celentano, sul Don Mario che ha potuto vedere il volto di Dio negli occhi di Celentano. Ma secondo me è una cosa che si può dire, che si può presentare. Sì, ma ognuno può pensare e dire quello che vuole, insomma, non c'è dubbio. Se uno poi vuole vedere Dio negli occhi di Celentano è libero di farlo. Cioè, si dicono tante fesserie, una fesseria in più, fesseria in meno, non c'è problema. Cioè, non... Certo, ma anche la fesseria ne diciamo tante anche noi. Su questo prete che possa. Ma cosa vuole che faccia io? Se uno, come per carità, con tutto rispetto, lo abbraccio fortissimo, è una persona molto gentile, molto carina, signor Don Mario, citato da Celentano, dice che negli occhi di Celentano ha visto l'immagine di Dio, beh, per carità, poi è un prete, lui vedrà più immagini di me sicuramente, avrà più, come dire, più visioni del sottoscritto che non ne ha per niente. Non ne farei un caso di Stato. Non è un caso di Stato. No, assolutamente non è un caso di Stato. Volevo invece anche dire un'altra cosa riguardo sempre il tema, è un po' la spiritualità, il paradiso, l'inferno. Ecco. Ho sentito qualche giorno fa, una settimana fa, Parenzo, che abbraccio fortissimo. Ma io non la sento bene, ma dov'è? Dentro un phon, c'è un rumore di fondo pazzesco, dove si trova? Sì, no, mi trovo in macchina, adesso provo. Roberto, però vada al veloce, sodo. Però, perché qui. Certo, dire che gay non potrebbero meritare o non potrebbero andare in paradiso. Chi? Ma io. Chi l'ha detto? Okay, sì, a parte che io non credo nel paradiso, voglio dire, ma anche per ragioni. Va bene, Roberto, ragioni... passiamo avanti. Grazie. No, non posso 800 24 00 24. È con noi da Bruxelles Francesco Speroni. Francesco Enrico Speroni. Oddio, ogni volta tu devi si dimentica specificare. Francesco. Buonasera a tutti. Buonasera, europarlamentare della Lega Nord. Buona Padania? No. Ogni volta, no, non lo dice. Buona Padania per chi lo accetta. Ecco, per chi lo accetta, bravo. Cambiato un po' il tono. Ma non l'ha mai detto, in realtà, sei tu che. È uno Speroni tecnico che ha, come dire. Hai l'Oden, lei, signor Speroni, non mi sembra proprio che abbia l'Oden, insomma. No, ce l'avevo da ragazzo, ma adesso non ce l'ho più. Non ce l'ha porta più però. L'Oden verde, ma non le starebbe male il L'Oden verde. Ma portava delle, scusi se glielo dico, Volta, l'Oden era blu a dire il vero. Però lei una volta portava delle, se glielo dico con grande affetto, delle cravatte orribili una volta. Perché? Che tra le cravatte orribili? Io no, una volta. La cravatta. Quella roba da cowboy. Metteva quella corda da cowboy, metteva Speroni una volta. Che non stringono. Vabbè. Quei cravattini, quelli piccolini. Che... No, sai i cowboy il cowboy americani, sì, no? Sì, che hanno questi cowboy hanno un abbigliamento molto pratico. Sì. Molto pratico, dice lei. Perché dice lei che i cowboy? Ma dice seriamente? La cravatta è uno strumento di tortura, se vogliamo, più o meno un nodo scorsoio che stringe il collo e non capisco a cosa serva. Adesso, per cui se non sono strettamente obbligato non la metto. Sì. Scusi un attimo Speroni, ma adesso questo è un ragionamento che ha a che fare naturalmente con i destini del mondo. Però è curioso però, perché le cravatte verdi sono sempre state un simbolo, un gadget, un simbolo fondamentale, il modo in cui molti politici della Lega si presentavano anche in Parlamento eccetera. Lei non se li metteva ogni tanto? L'ha mai messa? Nel Parlamento italiano, essendo obbligatoria la cravatta, allora uno o mette la cravatta texana come la metto io, se la vuole formale se la mette verde, normalmente un leghista può metterla come vuole. Ma lei non ha un set di cravatte verdi come molti deputati della Lega, no? Io ho qualche cravatta verde anche perché me l'hanno regalata, ma io preferisco un pullover verde quando sono in Parlamento, come adesso. Pullover verde. Adesso ho un pullover verde che tra l'altro come dimensione è superiore a una cravatta, è molto più riconoscibile. Beh sì, insomma lei dice io scelgo il pullover verde e non mi stringe il collo. Dunque se devo esporre qualcosa di verde preferisco il pullover verde che si vede di più piuttosto alla cravatta. Possiamo dare già questa notizia alle agenzie? Soprattutto non stringe il collo. Soprattutto non stringe il collo. Del pullover rispetto alla cravatta. Dunque, Speroni, due punti. La mia guerra contro le cravatte. Possiamo sintetizzare. Esageriamo. È sempre che la faccio. Preferisco il pullover verde alla cravatta verde. Però è una cosa, diciamo, no? Va bene, Speroni, senta, naturalmente non l'abbiamo chiamata per questo, abbiamo chiamata per sapere se lei intanto ha infranto altri limiti di velocità. Ah, perché bisogna dire nel frattempo, no? Non le infringo mai i limiti di velocità. No, scusi, si ha superato il suo record, volevo dire, no, abbia pazienza, ha ragione. Si ha superato il suo record di 300 e tot in Germania recentemente. Sì, sono andato qualche chilometro più veloce, dipende dalle circostanze. Questo è buono, questo è buono. Scusi, allora, qui facciamo un annuncio urbi e torbi. Ho battuto il mio vecchio record. Giusto? Cioè ha toccato la barriera ha toccato la barriera. Questo non ve lo dico. Ma no, ma tanto Speroni, siamo tra di noi, Speroni, siamo tra amici. Distanza c'è. 300 a quanto è andato? Distanza c'è. No, a quanto? No, ma ce lo di, quant'era il record precedente? Diciamo solo 316. Questo. Allora, 316 chilometri orari speroni alla guida della sua, non torpedo blu, ma insomma della sua macchina. Che macchina ha con cui tocchi 316, ricordiamolo, speroni? Una Nissan GT-R. Vabbè. E adesso, Nissan GT-R adesso che è arrivato fatto? A 300... 300... Ho detto che non ve lo dico. No, ma prestiamo un range, ci dia uno spread, ci dia un range. No, no, lo spread lo chiedete a Monti. No, ma scusi, che ha fatto? Cioè l'ha battuto alla grande oppure l'ha superato di poco? Questo almeno si può dire. Questo si può dire. Non di moltissimo. Ah, quindi siamo attorno ai 3,30, diciamo. No, 3,20, no? Sarà. Meno. 3,20. Si può dire, ho toccato i 3,20? 3,20. Ho toccato i 3,20. 3,20 li ho toccati, sì. Ah, ma non è un reato, Cioè, siamo in Germania. Ma si no, può... ci mancherebbe. Ho toccato i 3,20. Per l'esattezza, 3,21, 3,22, possiamo dare un... Ma per quanti secondi? Ho toccato i 3,20, per quanto? Ma quello sono cose quasi istantanee. E poi si torna indietro, sì. No? E poi si rallenta perché magari c'è un camion o un'altra automobile davanti. Beh, insomma, sì, certo. È meglio rallentare. Insomma, ma quanto è eccitante, Speroni, oggettivamente? Ecco, lei, quando ha toccato i 3,20, che cosa ha sentito? Cioè, si è emozionato? No, anzi, sono tranquillissimo. Cioè, ha sentito un brivido, ha toccato i 3,20, ha sentito un brivido. Non ho brividi né niente. Ma un po' di eccitazione, adrenalina, un po' di hubris, tracotanza. Niente. Diciamo, non è che porto misuratori di pressione o di pulsazioni, ma l'impressione è che i battiti del cuore siano sempre gli stessi. Sì. L'impressione. Quindi non provo emozioni. Speroni non prova emozioni quando. Vabbè, non provo emozioni, mi piace, ma non è che mi eccito. Ecco. Cioè, che cos'è meglio? Beh, questo sì. speriamo di no. Perché... Cosa sta per chiedere? No, non sto per chiedere nulla di sconveniente. Però. Cioè, è meglio. A cosa può essere paragonato andare a 320 all'ora? Sì. Mettiamola così. A cosa può essere paragonato? A una, che ne so, uscire con una bella donna. Vedere un bel tramonto. Speroni, però vedere un'acrobazia aerea. Sì. Però vedere un bel tramonto, andare a 320 all'ora è come vedere un bel tramonto. Sì. Però so, come uscire con una bella donna, che ne so. Con Belen. Io sono rigidamente monogamo. No, quello che c'entra, però, per carità, nessuno lo mette. A qualcuno piacerà andare con Belen, io preferisco con mia moglie. Preferisco mia moglie a Belen. Se le piace così. Ottimo questo. No, ma questo va benissimo, per carità. Nessuno. Dunque, lei non l'ha apprezzato nemmeno la farfallina, la manco l'ha vista. L'ha vista la farfallina padana di Belen? Ma l'ho vista sui giornali, non ho seguito il festival. Non ha seguito il festival, per carità, cioè, assolutamente. Senta, al di là dei 320 all'ora, di cui siamo contenti, le facciamo i complimenti naturalmente. Bravo. Per questo nuovo record che ha ottenuto. Ma è tanta roba per andare a 320 km. Senta, ma lei questa storia di Bossi che ha dato ad alcuni parlamentari, credo a lei il suo numero di cellulare nuovo, dove si può raggiungerlo, no? Un nuovo numero, non è proprio il suo personale, credo. Ma che storia è questa qua? Anche a lei è arrivato questo numero? Sinceramente no, anche perché quando bisogna parlare con Bossi uso la batteria del Viminale. Ah, usa la batteria, normalmente chiama, vorrei parlare con Umberto Bossi, sono Enrico Speroni, e Bossi risponde quasi sempre lui? Sì. O la segretaria. Senta, ma se noi facciamo questo numero, vediamo chi risponde. Io sono veramente curioso. Sì. A lei ha il numero? Lei è riuscito ad avere il numero? No, io non ce l'ho, ripeto, uso la batteria. Lei usa la batteria, però noi abbiamo forse un numero. Spiegate cos'è la batteria. Lo sappiamo cos'è la batteria. Però adesso noi facciamo questo numero che io ho avuto attraverso le mie fonti private, le fonti privatissime, le di fonti Cruciani. Della Zanzara. Non è stata una grande ricerca, devo dire. Questo numero perché sono curioso di capire chi risponde. Se è vero che risponde qualcuno, se è poi il numero giusto, perché qualcuno può avermi anche fatto uno scherzo. L'hanno scritto tutti i giornali. Bossi ha dato questo numero di telefono, noi lo abbiamo. Vediamo se è vero. Così almeno a lei risponde sicuro Bossi. Poi per carità abbassiamo subito, non vogliamo. Magari lo salutiamo così al volo. Rimanga lì, Espero. Ecco, vediamo telefono. Un po'. Telefono di Bossi. Secondo squillo. Presunto telefono di Bossi. Secondo squillo. Telefono di Bossi. Risponde lei poi Speroni terzo quando... squillo. Non risponde nessuno in realtà. Quarto. Ma non esiste sto numero. Ma no. Speroni. Tanto esiste di sicuro. Ecco. Speroni, parli. Bossi? Chi è che parla? Speroni? Ma dire vero no. Le posso passare Speroni? Le passiamo Speroni, Bossi. Eccolo, Speroni, c'è Bossi in linea. Pronto. Ciao Umberto, sono quelli della Zanzara che stanno facendo un ponte telefonico. Ho capito. Ecco, tutto qui. Come beh, salutatevi, come sta Bossi? Grande senatore, come dove andiamo? Dove si trova, senatore? In macchina. In macchina, ma dove sta andando? Sarà a Bergo. Grande, beh. Che c'è a Bergamo? Comizio ci sarà una cosa. Che c'è a Bergamo? Senatore? Pronto? Sì. Mi hanno tolto il telefono, Speroni, parli lei. C'è. Ha chiuso. Ti hanno tolto il telefono, Speroni, che è successo? Che emozione, Bossi in diretta alla Zanzara e su TGCom 24. Speroni, ma era giusto il telefono allora? Era giusto il numero. Non lo so, comunque voi avete detto un numero che non esiste. Se non esiste... No, ma alla fine era il numero ma giusto. Ma l'ha sentito, era Bossi veramente. Ma era Bossi veramente, Speroni. Ma guardi che non sto scherzando, era davvero Bossi. Non era quel solito cretino. Non era Parenzo, guardi, le assicuro che questa volta Parenzo è qui di fronte a me, sì, non ha fatto nessuna imitazione. Davvero, era Bossi. Non ha fatto nessuna imitazione. Cioè, io lo posso... Ma è meraviglia c'è se Bossi risponde al telefono. No, ma siamo emozionati perché lei si emoziona andando a 320 noi all'ora. Noi ci emozioniamo perché Bossi ci ha risposto in diretta. Siamo malati, lo capisco, siamo malati. Ci piace così. Ognuno ha le sue emozioni. A me se risponde Bossi subito al telefono mi emoziono. Io sono abituato a sentire questo cialtrone che fa l'imitazione di Bossi. Dov'è? Una volta che risponde lui, qui sto di fronte a me. Una volta che risponde lui per davvero e mi emoziono, scusi, Peroni, mi lasci. Poteva parlarci un po' con Bossi, già che subito ho messo in mezzo il ponte, la Zanzara, quello chiaramente hanno fatto un ponte, ma che ponte? Comunque. Un ponte telefonico quando uno parla attraverso un'altra linea telefonica. No, sì. Però come risultato di tutto questo che adesso Bossi sì. Sto numero di telefono lo cancellerà. Butterà, no, giusto. Lo cancellerà, lo cambierà. Non c'è dubbio. Che dobbiamo fare? Vabbè, che facciamo? Ci riproviamo? No, tanto risponderà Rosy Mauro. Risponde di solito? La segretaria? Facciamo così, Renzo. Adesso richiamiamolo, però lo saluti davvero, perché sennò poi pensa che sia uno scherzo. Va bene. Allora, però gli dice due cose. Tanto a lei non fa niente, Bossi. Cacciarla non la può cacciare. Figuriamoci, non può succedere nulla. Io sono veramente emozionato perché poi sentirlo, no? Un attimo, adesso gli facciamo il numero. Sì. Diventa stalking. Lei scusi, ma Tosi cacciato dal Parlamento della Padania, perché l'hanno cacciato? Ma dicono che non fosse. Un attimo. Speroni, risponda. Cellulare di Bossi, mi raccomando, appena sente la voce di Bossi. Secondo squillo. Cellulare vero di Umberto Bossi, Terzo squillo. Tanto non rispondermi. Sì, ciao Umberto, come stai? Chi sei? Speroni, da Bruxelles. Come on, da voi? No, volevo sapere come stavi. Sto bene. Tutto qua, io sto bene. Fatti vedere domani in giornata. Vabbè, magari ci sentiamo. Bene. D'accordo. Ciao, buona serata. Bossi? Pronto? Vabbè, vi siete dati appuntamento? Vabbè, tanto. Ma domani, che dovete fare domani? Che dovete fare? Che c'è un... Non lo so. Anche perché io sono qui a Bruxelles, fatti posso vedere. Anche rientrare. Beh, adesso rientrare apposta. L'abbiamo messa in mezzo noi. L'abbiamo messa in mezzo noi, per carità. Non mi costa niente prendere un aeroplano. Bella questa iniziativa del senatore di dare il numero di cellulare ai suoi Speroni non si è rivelata una grandissima iniziativa. No, poi per carità noi non la vogliamo rovinare adesso perché se continuiamo con questa storia la roviniamo perché poi Bossi ma mica dice... ce l'ha dato lui, scusa, no, scusa. Certo. Ce l'ha dato io. No, non ce l'ha dato lei, certo. Però se noi continuiamo con questa storia... E noi richiamiamo... siamo pronti a giurarlo, No, ma assolutamente, non ce l'ha dato assolutamente Speroni. Adesso lo diciamo per quelli della Lega che sono in ascolto, per le persone vicine a Bossi, non ce l'ha dato il signor Speroni. Cioè, non... l'ho avuto io attraverso le mie fonti, è normale, ma ce l'hanno molti secondo me. Oppure... è uno stronzo. Ci sentiamo dopo la pubblicità con Speroni per i telespettatori di TGCom 24, 20:45. Abbiamo già finito con TGCom 24. Sì, a dopo. siamo qui alle 20:00 24:00 24 con che pare amministri molto bene la città o comunque ha un grandissimo consenso, è stato mandato via o comunque defenestrato, così abbiamo letto dal Parlamento padano. No, Calderoli ha detto il signor Tosi. Poi Tosi ha detto mi ha mandato via, è stato Calderoli. È stato lui. È stato, che è successo? Scusi, lei che è un attentissimo osservatore delle cose della Lega. Sento osservatore, ovviamente, visto che nella Lega ci sono 86. Appunto, è certo. Non so quali siano le motivazioni, ho letto qualcosa sui giornali, ma come al solito non è che mi fido delle notizie giornalistiche. Beh, quindi, è un fatto che è stato mandato via dalla vicepresidenza. Beh, che sia stato mandato via dalla vicepresidenza padano. Del fantomatico Parlamento padano, no, non c'è dubbio. Sì, poi perché se è stato Calderoli, chi ha detto la Calderoli e non a me. Ma secondo lei, scusi, adesso al di là di tutto, questo conflitto prima o poi bisogna che anche nel vostro interesse, non nel nostro, che noi naturalmente speriamo che questo conflitto duri per l'eternità perché così ci divertiamo un mondo, però questo conflitto che c'è a livello locale tra Tosi e Gobbo, ecco, e indirettamente tra Tosi e una parte della dirigenza della Lega deve finire per forza. Io dico una cosa, questa lista Tosi perché non la può presentare? Cosa c'è di male a presentare una lista? Dice Tosi, raggiungiamo il 50% solamente se io presento una lista mia, se non vogliamo fare l'accordo col PDL, la lista Tosi va presentata, così Lega più lista Tosi più altre cose facciamo il 50% o no? Ma se presentasse una lista Verona va bene, ma una lista così personalizzata è un po' contro lo spirito della Lega, noi non amiamo i personalismi, insomma. Beh, insomma, come non amate i personalismi, cioè, avete un leader da non so quanti anni che comunque è un partito carino. Forse l'ultimo ad accettare di mettere il suo nome sulle liste elettorali. Ad accettare l'ha poi imposto, credo, no? L'ultimo ad accettare. Non ha mai voluto, ha accettato controvoglia solo perché a furia di vedere leghe strane, Lega Alpina, Lega della Padania, di quelli lì che rubavano i voti, appunto su forti pressioni ha accettato di far scrivere Bossi sotto l'elettorale per evitare confusioni. Ecco, però nella Lega non sono molto ben visti quelli che sono personalizzati, tanto vero che la lista Tosi sarebbe la prima di un leghista con il nome del candidato. Quindi sta sbagliando. La lista Tosi col nome di Tosi non va fatta. Se vuole fa Forza Verona, lista Verona, lista no, non Forza Verona, può fare lista Verona, insomma. Lista Verona oppure così, ma che ne so, lista no, la moglie no. Non sono io cosa che devo dire. Dia un consiglio, che ne so, dia un consiglio, i consigli di Speroni sono sempre ben accetti, immagino. L'ho già detto, lista Verona potrebbe essere, ma ripeto, noi a Busto ci siamo presentati come Lega senza nessun nome, anche se abbiamo già avuto anche noi un sindaco Tosi, ma si è presentato come Lega, non come Tosi. Comunque, lei dice va bene tutte le liste anche capitanate da Tosi, al di là della Lega, purché non ci sia il nome Tosi. Ecco. Questo potrebbe essere un compromesso, su questa cosa si potrebbe raggiungere un compromesso secondo lei? Ma non sono io che devo decidere. Vabbè, ma così cosa, diciamo, così pur parlare. Io sono lombardo, Verona è la città amabile del Veneto, non vedo perché devo essere io a dire come devono fare. Non è che sia un altro paese, stiamo, esatto. Speroni, cioè, non è un altro paese. Siamo federalisti anche in quello. No, sì, per carità, però insomma siamo a pochi chilometri di distanza, è una città importante, l'unica... Non è sulla Luna, è sempre in Padania, ma ripeto... Il federalismo vuole che ognuno nell'ambito delle linee guida del movimento decida a casa sua. Sì, beh, non è che stiamo discutendo, diciamo, di cose enormi. Stiamo discutendo... No, è una cosa importante. Il nome di una lista. No, è importante perché è la Lega a Verona che cosa fa? La Lega a Verona tenta di vincere le elezioni da sola. Questa è la realtà dei fatti, no? Ci ha tentato anche in tanti posti. Beh, a Verona è una città importante. Verona è l'unica città capoluogo consistente che avete in Italia. Ma mi sembra che trascuriate Varese. Beh, insomma, tra Verona e Varese, però forse è più importante Verona come numero di abitanti. Diciamo, sbaglio. Sì, ha più abitanti Verona, per carità. Però per la Lega forse è più. Forse perché io sono della provincia di Varese, mi interessa anche il mio no, capoluogo. No, certo, insomma. Per carità, certo. Senta, ma anche Monza, per dire, che pur non essendo capoluogo di provincia, supera i 100.000 abitanti, insomma. E anche lì abbiamo un sindaco della Lega che si è presentato col nome suo, Ambriani, insomma. Sì. Senta un po', ma Tosi come personaggio, no? È un po' al di fuori degli schemi della Lega, anche per questo, no? È un po' al di fuori, è leghista, per carità, però viene da un'altra cultura politica. Non è un leghista doc, mi sembra di capire, o sbaglio? Cioè non è proprio quello... Io so che nella Lega da decine di anni, quindi mi sembra che... Beh, decine no, perché... No, decine no. Sì. È stato anche consigliere, è stato consigliere comunale, ha avuto dei processi proprio in quanto leghista, è stato consigliere regionale, quindi è più di 10 anni che dalla Lega di sicuro, ecco. Mm. E ha ricoperto, anzi, sì, pare che sia stato anche assessore in regione. Certo, Veneto. Sì, assessore alla sanità. Non è arrivato all'ultimo momento, insomma. Senta, ma dunque lui ci sta benissimo nella Lega, non è che è ormai un po' esterno alla Lega, no? Ma a me non sembra, ripeto, non è che sono così addentro nelle questioni di una regione, di una nazione vicina come il Veneto, ma perché se mi dite qualcuno Maroni, ne so di più. Sì. Perché il signor Maroni, il signor Bobo Maroni, dopo l'espulsione dal Parlamento Padano... Ma dove sta? Ma dov'è? A lavare i piatti? Che succede? Alla mensa del Parlamento Europeo, dov'è? No. E cos'è sto rumore di fondo? Sentono dei rumori pazzeschi di fondo. No, stanno facendo delle pulizie. Stanno delle pulizie. Le pulizie del Parlamento Europeo. Sì. Vabbè. Anche il Parlamento si pulisce. Comunque ditemi un po' cosa ha detto Maroni. No, Bobo Maroni, l'altro giorno, a botta calda, quando c'è stato questo provvedimento contro Tosi, non l'ha presa molto bene, anzi ha fatto capire che è un provvedimento politico. Maroni, questa detto. Espulsione dalla vicepresidente. Che sia un provvedimento politico potrebbe avere le sue ragioni. Stiamo parlando di un personaggio politico, non è che. No, ma quasi punitivo nei confronti di un uomo che, insomma, è un maronita, un maroniano. Ma non è solo quello. Un barbaro sognante. Cioè, no, sembra un po'. Ma che so poi sti barbari sognanti? Lei lo sa che so sti barbari sognanti? Barbari sognanti. I barbari sognanti mi pare che Maroni l'abbia preso da un libro di Italo Svevo. Cioè. Sì. Ma delle persone che hanno degli ideali. E quindi non è che fanno quello che fanno per interesse personale o altro. Ma una cosa seria secondo lei oppure una roba... Beh, diciamo una cosa seria, il barbaro sognante è un'espressione simpatica, sì. E posso dire che anch'io sono un barbaro sognante, visto che sono una padania libera. Anche lei è un barbaro sognante. Questo, quindi anche lei è vicino al gruppo di Maroni, insomma. No, in quel senso. Io sono un leghista. Sì. E siccome i leghisti amano la Padania, sì, amo la Padania e sogno la Padania libera. E dunque, da questo punto di vista, è un barbaro sognante. Sì. Comunque, mi sembra, Speroni, che voi dite ormai sempre di più che l'alleanza col PDL è finita. Non è che l'abbiamo rotta noi l'alleanza. È il PDL, cioè, che ha deciso di andare con Monti, dite voi, no? Il PDL che ha deciso di andare con Monti. Ma non c'è Monti, proprio nessuna speranza, no? Che questo grande amore, che questo grande abbraccio si ricomponga in qualche modo, no? Ma vediamo cosa fanno. Se mollano Monti ci può essere questa possibilità, ma finché Berlusconi sta abbracciando a Monti, noi non siamo per il ménage à trois. Beh, questa è buona però, non siamo per il ménage à trois, cioè, sì, in un letto, sì, Monti, Berlusconi e Bossi non ci possono stare nello stesso letto, insomma. Ecco, sì, siamo un po' tradizionalisti. Siete molto tradizionalisti. Uno contro uno. Vi siete, diciamo, sentiti, sì, abbandonati, sì, da Berlusconi e ormai, diciamo, il gioco è fatto. Però da soli dove andate? Spero, io lei la conosco bene, da soli. Dipende da quello che ci danno gli elettori in termini di voto. Sì, vabbè, però per carità uno può aspirare a un sacco di... Vabbè, posso usare un detto abusato, meglio soli che male accompagnati. Sì, meglio, quello va bene. È meglio perdere da soli che vincere con certi alleati. Però per fare cosa? Cioè, nemmeno i vostri obiettivi da soli potete raggiungere, lo sa bene, cioè... Se voi volete il federalismo... Sta parlando di elezioni amministrative. Ma no, ma in genere, dico, da, sì, soli, non è che potete fare molto. Ma adesso vediamo. Non si sa cosa si riesce a fare. Vediamo cosa ha fatto per dire Pannella da solo. Ma non vi sentite un po' persi, un po' da soli, un po'... No, ma ci mancherebbe. Che ne so, un ci po'... Ci mancherebbe. No. Un po' incagliati siete forse, no? No, non siamo incagliati, non siamo degli schettino. Non siete schettino. Vabbè, senti, io voglio chiudere con questa presa per i fondelli che Monti le ha regalato l'altro giorno al Parlamento Europeo a Strasburgo, quando ha detto che beh, il signor Speroni ha fatto un intervento filosofico. Lei aveva... Sì, io non faccio il filosofo, io faccio il politico. Parlava di complici, di padroni. Ho espresso una mia opinione politica e Monti l'ha presa per il culo, diciamo la verità. Sì, ma ha preso per i fondelli, ha cercato elegantemente di svicolare, non ha risposto alle mie contestazioni e se l'è cavata con una battuta. Con una battuta, ecco, ma è una battuta che è proprio una sorta di presa in giro abbastanza pesante. Molto ironico. Molto stato, ironico, però abbastanza pesante. Allora, è stato molto ironico, però ha detto tutto sommato... che sono un filosofo, non ha detto che è un criminale, che è un delinquente, roba del genere. Sì, ma l'ha detto. Io avrei preferito che avesse argomentato in maniera diversa, ma si vede che non riusciva, forse perché quello che ho detto aveva qualche fondamento di verità. Lei ha detto che nei viaggi in USA è andato negli Stati Uniti, è andato a incontrare i suoi complici o padroni, pure lei non è che ci ha lavorato per Goldman Sachs, eccetera, non è un mistero, quindi sì, ma è la parola complici, padroni, cioè come se dipendesse da loro, capito Speroni? Però può darsi, insomma, non è che lo possiamo escludere questo, ha già lavorato con loro. Comunque. Poi può essere un rapporto di collaborazione, un rapporto paritario e quindi sono complici, oppure può darsi che abbia ricevuto delle indicazioni e quindi sono padroni. Ovviamente ho usato qualche termine un po' forte, certo. No, tutto sommato mi sembra che in politica si possa anche usarlo, non sono sceso dalla volgarità. No, per carità. Io la ringrazio molto, la saluto e ci sentiamo presto. Grazie. Stia bene, Buona serata. A presto, a tutti. Pubblicità. Bene, ben ritrovati qui con la Libera Repubblica della Zanzara in diretta su Radio 24 800 24 00 24. Detta Libera così, Repubblica della Zanzara, dove ognuno banane, può dire e fare quello che vuole. Alberto da Modena, libertà, diciamo. Poi comando io naturalmente. Alberto da Modena. Pronto? Vada. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vada. Ma chi è che parla? Alberto? Pronto? Come si chiama? Sì. Alberto. Alberto, ma lei ha saputo che la CISL è guidata dal signor Bonanni. Vabbè, perché devi dirlo così? Bonanni, no, ma non lo dico senza, offesa, ha protestato perché definendo settaria la trasmissione di Fabio Fazio, perché sostanzialmente non li invitano, questo lo dico io. Mi sembra normale, un piccolo sindacato che non esprime tutta la maggioranza dei lavoratori e che palesemente si mette sempre dalla parte del padronato, cosa deve essere invitato a fare? Adesso il suo giudizio mi pare il suo giudizio sulla CISL mi sembra piuttosto ideologico, partigiano, diciamo. Ecco, però comunque insomma, io sono iscritto alla CGL, glielo dico subito. Bene, dunque vedo che tra gli iscritti della CGL la dirigenza o quantomeno la CISL corre buon sangue, insomma. Cioè si mettono ovvio, puntualmente dalla parte del padronato, ma lei utilizza soprattutto utilizza ancora queste parole, il padronato. I padroni. Infatti queste cose stanno nei fatti. Ma no, ma sì, certo, esistono sempre i padroni, non c'è dubbio, esistono gli imprenditori, esistono i lavoratori, non i padroni, comunque esistono anche i padroni, ma io non mi spavento delle parole, va benissimo. Esistono i padroni, viva i padroni, dico io, e viva i padroni. Beh, non tutti però, solo alcuni. Beh no, tutti, in generale, quelli chi fa impresa, tutti, i padroni che fanno impresa. Viva quelli che non delocalizzano, perché ma anche padroni, quelli che lo delocalizzano, viva anche quelli che delocalizzano. Non è mica un crimine, lì bisogna investire dove costa di meno, che male c'è investire dove costa di meno? Ma allora gli italiani dove vanno a lavorare? In India, Alberto, ma abbia pazienza, l'impresa non ha confini, l'impresa non ha confini. Ma scusi, le faccio un piccolo esempio di nomi: OMS, Ariston, Piaggio, Bialetti, sono tutte aziende che hanno 6.000 dipendenti all'estero, ma il problema occupazionale in Italia, se la cosa continua in modo, come lo risolviamo? Facciamo in modo che non si vada a investire o comunque si investa di meno in quei posti, rendiamo più attrattivi gli investimenti in Italia, quello è il punto. Allora scusi, Monti è andato recentemente negli Stati Uniti, no? Sa cosa ha detto Obama il 25/1/2012? Ha detto che bisogna penalizzare le imprese che delocalizzano. Invece il signor Monti, un attimo solo, sentiamo Napolitano intervistato per strada insomma, mentre era in visita, non so dove. Nascere un caso diplomatico sull'India? Il caso diplomatico è già nato, l'importante è che si risolva, ma è per essere nato è nato. Ora in Afghanistan... Ha detto anche che è un caso ingarbugliato quello dei tre, quello dei militari italiani arrestati in India. Vabbè. Alberto, allora? No, niente, volevo dire, il nostro Obama, che mi sembra sia un presidente di uno dei paesi più liberali e liberisti del mondo, ha detto che bisogna penalizzare le imprese che delocalizzano. Monti viene in Italia e cosa dice? Facciamo la riforma del lavoro senza sindacati, se non ci stanno e senza conflitti. Giusto, giusto, giusto. Ma come giusto? Giusto, giustissimo, cioè, giustissimo. Bisogna ascoltare, il mio metodo è questo, metodo Cruciani che si applica, no, si allora, applica naturalmente per fortuna, non al governo dell'Italia. Italia, io ho visto una trasmissione. Una volta. Il tritacarne si chiama, si ricorda? Sì, beh, grande successo, certo, come su carne allora, andava su Cruciani. Che affrontava certi problemi con una determinazione che nel valutare il governo Monti non ha assolutamente. No, scusi, io sono determinatissimo, su abbia pazienza, io ho detto... No, ma sta continuamente osannando il governo ma Monti. Ma io non sto osannando, io sto, sto parlando di metodo, peraltro secondo me poi su questa storia ci saranno dei passi indietro, non c'è la forza sufficiente ancora, non so perché poi se non lo fa questo governo chissà che, chi deve farlo. Comunque questa qua la mia previsione, ma io dico semplicemente questo, caro Alberto, che sì, sono come dire musica per le mie orecchie, musica quando sento il Presidente del Consiglio, chiunque, dire beh, noi il nostro metodo è quello di sentire, ascoltare, fare il famoso tavolo. Io quando sento la parola tavolo metto mano alla pistola, perché i tavoli non portano mai a nulla e di solito le trattative non sempre, non i tavoli sempre. Io quando metto dobbiamo fare un tavolo, no, ma non sia mia, così tavolo, non no, dobbiamo no. fare un tavolo. Cruciani, mi scusi, ma un imprenditore, se secondo lei viene in Italia col pensiero di come licenziare la gente, ma o che come c'entra? Ma no, guardi che questa allora, beh, purtroppo in Italia non ci vengono. In Spagna purtroppo non ci vengono. In Spagna hanno fatto una riforma del mercato del lavoro, anche naturalmente contestata, che però va proprio in questa direzione. Quando c'è una grande disoccupazione, la cosa principale da fare è quello di rendere il lavoro più flessibile, altrimenti come si creano occupazione? Non è che si crea così dalla certo, permettendo che le aziende vadano all'estero, perché ma quello è un altro discorso. Le aziende ci vanno lo stesso, non è che lei può impedire a un'azienda di andare all'estero. Allora creiamo le condizioni perché non ci vadano. Allora, puoi disincentivare, su questo ha ragione, Obama l'ha fatto, ma l'ha fatto anche Sarkozy, in Francia ad esempio, disincentivare le imprese che vanno all'estero, ovvio, creare delle agevolazioni fiscali. Alberto, lei è molto simpatico, io non sono difensore di Monti, io sono difensore delle cose che propone un governo, alcune cose mi piacciono, altre meno. Cristina da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Signora Cristina, dica. Intervengo sull'argomento precedente del bacio, il famoso bacio. Sì, sì, sì. Ecco. E niente, volevo puntualizzare, ho ascoltato Sgarbi che se l'è presa. Dunque, io credo che si debba fare una differenza sul bacio e di che bacio si tratti, perché un bacio tranquillo su una guancia, sulla fronte, è espressione d'amore, come anche semplicemente uno sguardo, ed è qualcosa di bello da guardare. Ma se andiamo sul bacio, parliamo di bacio sulla bocca. Cristina, abbia pazienza. Qui c'è che facciamo? Il discrimine, secondo me, è uno, che è quello della pubblica decenza, più o meno, anche se lì poi ognuno ha i suoi giudizi, naturalmente. A me, sinceramente, anche un bacio appassionato e anche qualcosa di più spinto, se vedo qualcuno dove strada mi metto a ridere e passo oltre. Però posso capire che ci sia qualche pruderia da questo punto di vista. Non qualcuno c'è dubbio. Si mette anche a guardare, peraltro. Sì, qualcuno si può mettere a guardare, altri no. Però, insomma, le dico, cara Cristina, distinguere tra i diversi tipi di bacio per capire che cos'è offensivo, francamente mi sembra un esercizio. E un bacio ad esempio a labbra chiuse sulla bocca, dove due bocche si avvicinano piano senza la lingua, di che stiamo parlando? Non è che si può fare la graduatoria, capito? Non è questione di graduatoria, questo perché si era parlato prima di un doveva essere un'espressione d'amore. Allora non capisco perché qualcosa di intimo debba essere portato per strada. Io da qui, infatti, io sinceramente, Giovanardi che parlava di pipì per strada, io sinceramente ho inteso un senso di privacy, un'azione di privacy, di riservatezza, di intimità. Io quello ho colto. E può, è da evitare perché può dare fastidio per il rispetto agli altri. Può passare un bambino, può passare un sacerdote, una suora. Cioè, capite? Io questo intendevo. Secondo me era questo lo spirito anche di Giovanardi. Cioè, quale sarebbe stato secondo te lo spirito di Giovanardi, scusi? Secondo me, nel modo, quando lui ha associato il fatto di vedere... questo bacio se non ho capito male, tra due uomini tra due uomini, e lui diceva, ha associato il fatto del bacio in mezzo alla strada come fare pipì. fare pipì è diciamo è una situazione di grande intimità, di ma infatti grande infatti è sbagliato, una sciocchezza, infatti è sbagliato il paragone, cioè nel senso che un bacio seppur appassionato in mezzo a una strada, lasciamo perdere la questione se sono se a darsi questo bacio sono due omosessuali, due eterosessuali, non me ne frega niente di questa diatriba che deve essere ancora risolta peraltro, dico sull'interpretazione delle parole di Giovanardi, però comunque il paragone con la pipì non c'entra, e sono due cose completamente diverse. Non è che il bacio può essere paragonato a qualcuno che si mette lì e comincia a fare la pipì per strada. Adesso quello è osceno, no. E maleducato. No, sì, ma io non. Un bacio difficilmente non lo è. È un riferimento al reato, lui non credo, ma che no, lui. Ma non reato, c'è neanche ma una no. Pubblica decenza, ecco. In un bacio, cioè, dov'è il problema? Va bene, cara Cristina. No, sì. Grazie. Okay. Grazie. A voi. Grazie. Enrico da Pavia, buonasera. Buonasera. Vada. Niente, volevo fare una... Intanto Enrico, mi scusi, però giustamente qualcuno mi fa notare un sì. Articolo del Corriere della Sera di oggi, anzi no, una frase pronunciata dall'ex ministro Altero Matteoli, sì. Senatore del PDL ex AN, sì. Il quale a proposito dell'idea di Berlusconi di eliminare il PDL e sostituirlo con delle liste civiche alle elezioni amministrative, perché altrimenti sarebbe difficile fare poi il paragone tra i voti presi dal PDL a queste elezioni amministrative e le passate elezioni amministrative, insomma i sondaggi sono molto sfavorevoli, Matteoli dice: credo che solo una mente malata potrebbe concepire l'idea di rinunciare al simbolo con cui un partito ha ottenuto qualcosa come il 35-36% dei voti. Chi decide una cosa del genere? Non basta mica un coordinamento qualsiasi, ci vorrebbe almeno un consiglio nazionale. Vabbè, insomma, al di là poi di tecnicismi, vabbè, dei consigli nazionali, queste cose terribili. Tecnicismi puramente. Però dice, ma insomma, chi pensa una cosa del genere? Magari Berlusconi, che ne sappiamo? Cioè, è un malato di mente, questo potrebbe aver detto. Naturalmente si riferiva a chiunque abbia in testa una cosa di questo tipo, però c'è anche un riferimento a Berlusconi. Enrico, allora? No, io non credo che un partito debba rinunciare al proprio simbolo, anche se se i sondaggi gli danno contro, bisogna fare in modo che i sondaggi gli diano valore. Non credo che svilire il partito in quanto tale, rinunciare con delle liste, con degli escamotage che non credo che portino al risultato che si prefigge Berlusconi o chi l'ha consigliato. Cioè gli escamotage sarebbero creare delle liste civiche. Beh, guardi che dal punto di vista elettorale magari può pagare di più, perché può funzionare. Io non sono un tecnico di ci sono le realtà locali dove magari funziona di più, che ne so, una lista Parenzo piuttosto che il simbolo funziona del PDL, più una lista Zanzara, o una lista Zanzara, piuttosto che il simbolo del PDL. Perché non presentiamo le elezioni? Se presentiamo la lista Zanzara, noi, in questo momento prende più del facciamo, PDL. Alle prossime amministrative presenteremo in tutta Italia la lista Zanzara, aiutateci a raccogliere le firme. 800 no, per carità, no, per carità. Se dietro Zanzara c'è, cioè, dietro la lista Zanzara c'è, cioè, Parenzo e Cruciani, sì. La gente lo sa. Se sì. Dietro la Zanzara c'è Berlusconi o Verdini, lo sa, sì. Ugualmente. Ecco. Sì, sì, no, ma non c'è dubbio. Però, allora, però sa, c'è un sacco di gente che di fronte anche a un sì. Cogliona non capisce ma niente. Ma no, allora, cogliona. No, cioè, e allora si immagina di votare non so per chi. No, vabbè, ma guardi che operazioni di macchiaggio elettorale, operazioni anche per mettere in mezzo dei personaggi nuovi. È chiaro che non è poi fare la lista, che ne so, dico una stupidaggine, a Verona la lista, chiamiamola Zanzara, e poi il capolista è quello che è il capolista del PDL alle scorse elezioni. È evidente che poi bisogna, da quel punto di vista, mobilitare persone nuove. Enrico, grazie. Luca, provincia di Pescara, buonasera. Buonasera, vado. Una piccola polemica. Sì. Ormai è Radio Zanzara Padana. Perché? Scusi? È diventata Radio Zanzara Padana. No, che tutte Zanzara le, Padana? Guardi, tutte le sere. Tutte vabbè, le ma comunque sere. A noi ci piace così, ci piace invitare, sì, gente dalla Lega. Qual è il punto? Un po' esagerato il discorso, un pochino. Questa è una radio eccezionale perché purtroppo ci prende mentre torniamo a casa. Cioè, sì. Sempre, è un po' esagerato questo discorso. Ma lei si diverte o no? Si diverte o no? Non tanto con la Lega, non si diverte, va bene, tanto poi il fatto dei baci di Giovanardi non ne possiamo più proprio nessuno. Che vuole che le dica. Ma Luca, di che dovremmo parlare secondo lei, scusi? No, è un po' psicanalitico questo discorso, è veramente esagerato. Ma ho capito, noi, Luca, ma noi di che dobbiamo parlare secondo lei, mi spieghi? Ma ci sono tanti argomenti. Me ne dica uno. Ma eravate prima, senza Berlusconi non riuscite più a fare nulla. Insomma ci barcameniamo. Non mi sembra. Cerchiamo. La triste realtà, senza Berlusconi non si fa più nulla. Vabbè, ma comunque, guarda, Luca, certo, è un problema. Vi invito, No, voi siete bravissimi, sarcastici, bravi, anche politicamente preparati, però due argomenti che ci hanno, insomma... Ovviamente di Berlusconi ormai non parliamo più, per cui... No, però è un peccato, È un peccato. A me lo dice. Perché io, se si ricorda, una volta le dissi... A parte che non è vero, perché stasera... Manca un po' anche a me. Poi abbiamo parlato, con Galan, no, forse... Ma... Quando le dissi una volta, la telefonati tanto tempo fa, e dissi... Le leggende metropolitane su Berlusconi sono eccezionali, sono delle cose veramente da scrivere. Ci penseremo. Luca, l'abbraccio fortissimo, borsa. Non risponde nessuno in realtà. Speroni. Tanto esiste di sicuro. Ecco, parli. Bossi? Chi è che parla? Speroni? Le posso passare Speroni? Le passiamo un Speroni, Bossi. Pronto. Ciao Umberto, sono quelli della Zanzara che sta facendo un ponte telefonico. Ho capito. Come tutto qui. Come sta, Bossi? Salutatevi, come sta Bossi? Bene. Dove si trova, senatore? In macchina. In macchina, ha visto che ma dove sta andando? Sono a Bergamo. Grande, beh. Che c'è a Bergamo? Comizio ci sarà una cosa. Pronto? Secondo squillo. Cellulare vero di Umberto Bossi. Terzo squillo. Tanto non rispondono. Pronto? Sì, ciao Umberto. Come stai? Chi sei? Speroni, da Bruxelles. Ciao, da voi. No, volevo sapere come stavi. Sto bene, tutto qua, io sto bene. Fatti vedere domani. Domani in giornata. Vabbè, magari ci sentiamo. Ciao. Ciao, buona serata. Bene, siamo qui dopo aver sentito questa telefonata in diretta con il vero Bossi. Le con grandi Bossi. Esclusive della Zanzara. 800 24 00 24. Io mi sono davvero un po' emozionato, ma dico sul serio. In compagnia, sì, pure troppo, in compagnia di due amici. Il primo è Francesco Renga, che abbraccio. Ciao Francesco. Ciao. Grande Renga. Come andiamo? Grazie. Molto bene, voi? Beh. Combattiamo, lottiamo come leoni. Combattiamo da stasera in diretta su TGCom 24 per una parte della trasmissione, dunque grande novità. Abbracci media. Tanto voglio dire a Renga che esce un suo disco, è già uscito in realtà, suo disco che si chiama Fermo Immagine. Fermo Immagine. Le grandi promozioni, le grandi marchette della Zanzara. Francesco Renga. Sì, no, Fermo Immagine in tutte le migliori. No, questo lo dico tutto serio. Naturalmente io l'ho ricevuto con firma di Francesco l'ho già ricevuto con firma e con pezzo di con capello di intrecciato di Francesco e di qui siamo al feticismo, siamo al feticismo, vi assoluto. Io ne voglio uno però anche con un autografo della signora Ambra. Oh, mamma mia, che palle. Va bene. Ma che ha detto di questa la signora Ambra, di questa debacle? No, di questa debacle, insomma, il fatto che Sanremo è andato così, insomma. Poi quanto sei arrivato? C'è la classifica? Ah, non si sa, ma io erano abbastanza chiari, cioè, non si sa come sia andato, anche perché le votazioni non si è capito cosa è successo, c'è stato un po' di maretta, ma io sono molto sereno e soddisfatto. Cioè, in che senso, scusami Francesco, un po' di maretta, no, spiegami, che maretta, in che senso sulle votazioni? Ho sentito ieri... Mangiarotti che diceva che la giuria non è riuscita, la giuria, diciamo l'orchestra non è riuscita a votare, un po' di cose. Però tu avevi previsto, la vittoria, non era complicato, però. Ce l'avevi anticipato, però effettivamente avevi detto o Emma o Noemi, o sbaglio. Emma, Noemi, io avevo detto tutte e tre. Poi mi sarebbe piaciuto dirgli che ce lo meritava anche lei, insomma, era una canzone molto bella. Però Arisa non l'avevi messa tu, Sì, come no? No, avevi detto Bersani, credo, terzo. Poi anche Arisa, sì, effettivamente. Un po' tutti avevi detto, sostanzialmente. Avevi detto un po' tutti. No, l'importante è che non ci fossi io, ovviamente. No, ma tu ti eri autoescluso sin dall'inizio. Ma come? Ma però volevo dirti: facci un fermo immagine del festival di Sanremo. Devi andare da amici ormai, perché altrimenti non vinci. Ma tanto tu da amici non ci puoi più andare perché hai una certa età, per cui ormai non vincerai mai più il festival di Sanremo. O vai da amici, da De Filippi, oppure ormai non vinci più. Sta facendo le corna, signor Rengo, ovviamente. No. Vabbè, va bene, io non ero andato in realtà per vincere, l'ho stato molto chiaro nella mia dichiarazione. Poi ho visto, insomma. Mi avete dato una mano anche voi a mettermi in buona luce. Beh, no, sì, ecco. Adesso non è che ci puoi addossare. Non è che ci è puoi colpa addossare. Della zanzara. No, tardi. Diciamo che da quando ho fatto quella dichiarazione sono sempre passato per ultimo. Sì. Scaletta. Abbiamo rovinato Renga. Ho iniziato a puzzare un po'. No, ma che va benissimo. Sono entrato terzo, invece il controllo dopo Madonna e il Coldplay, che direi che in buona compagnia, quindi va benissimo così. Sì, quella dichiarazione è stata quella che ha, come dire, aperto acque, tutto, la discussione sulla vicenda di Celentano. Sì, perché tutti aspettavano Pirla che lo dicesse, capito? No, ma adesso non dire così. Vai avanti tu che ci viene da ridere. Ma tra l'altro c'è un'altra persona che con le dichiarazioni alla Zanzara ha avuto qualcosa a che fare. Iva Zanicchi è con noi. Buonasera a voi. Ivona, come stai? Sto abbastanza bene, se permettete vorrei salutare Renga. Sì. No, grazie. È vero, dopo sono tutti vincitori, io però prima ho detto che Renga avrebbe meritato sicuramente di arrivare almeno nei primi cinque, che ha la voce più bella del festival. Brava. È un grande cantante, ma insomma si sa, le cose ma quando vanno l'hai detto, così, da un po' di anni vanno così. Hai detto una cosa giusta, dovrebbe passare magari una mezza stagione da Amici, perché qui mi sa che si vince soltanto uscendo dai talent. Vabbè, ecco, ma si può dire Iva che ormai il vincitore del festival è una cosa che appartiene un po' a delle, è vero, poi ci sono le votazioni, le cricche del festival decidono. No, non le chiamerei cricche del festival. Se i discografici e se gli editori sono un po' dei pisquanelli, scusate l'espressione, che hanno lasciato, viva Dio che ci siano questi talent show, hanno lasciato il potere, prima mi ricordo anni e anni addietro a Pippo Baudo, che era bravissimo, aveva in pugno la musica leggera italiana, poi altri. E adesso ci sono questi qua, Maria che è bravissimo, poi c'è X Factor, io canto, tu canti, noi cantiamo, voi cantate e si canta. Si cantano e va bene lo stesso, voglio dire, almeno. Allora, a proposito di canti e di cose, vogliamo dare un nuovo nome al perché ormai il PDL, cara Iva, tu sei veramente il PDL, è morto, tu lo sai, no? È morto, il finito. Il nome è finito. Sepolto, ormai è tutto finito. L'importante, ragazzi, ve lo dico, poi no, stasera devo stare molto attento perché sono molto arrabbiato con voi due. No, ma che t'abbiamo fatto? È che non muoia Silvio Berlusconi. Perché devo morire? Si è morto il PDL. Va bene, Berlusconi chiamerà, fa un altro partito. Ecco, come lo chiamerebbe Iva? Come lo chiameresti? Non so, ad esempio, Fermo Immagine le piacerebbe? Beh, come no, nome di un partito? No, non lo so. Ma scusa, Fermo Immagine non è il titolo del disco di Renga? No, appunto, scusi, no, ho sbagliato. Sei sbagliato, Parenzo. È occulta, Iva. No, è che Parenzo ha delle cose scritte davanti, ogni tanto non sa dove leggere, ha letto Fermo Immagine. Ha detto, no, secondo me lui il partito lo chiamerà Avanti Tutta. Ah, Avanti Tutta, ma questa è buona, però. Che nome è? Avanti Tutta, non ma è che male Avanti Tutta, dai, ma non ti metti in questo momento, non ci ho pensato prima. È bellissimo. Come hai detto, Francesco, scusa? Concordia. Beh, no, Concordia adesso. No, per l'amor di Dio, Concordia. È già successo, Concordia. Se è vero che il PDL è finito, è già quello, insomma. Scusa? Beh, Avanti Tutta, Concordia, un esso c'è. Appunto. Non ha tutti i torti, Avanti Tutta. No, mi suggeriscono qui, perché siamo in famiglia, che potremmo chiamarlo anche Salga a bordo. No, però scusa, diciamo che Iva non gli interessa nulla dei destini del suo partito. Avanti Tutta, la prima che mi è venuta in mente è bellissima. Avanti Tutta. Forza Silvio, lo chiameresti Forza Silvio? No, Silvio è già stato detto, è banale. No, no. Che c'entra Forza Silvio? Forza Gnocca? Silvio. Se non c'è più fuoco. Silvio, basta, che fallisce non solo PDL, ma fallisce anche Avanti Tutta, indietro, insomma. Forza Silvio sarebbe un disastro. Berlusconi voi lo sapete, per cui io non sono una politica, sono atipica. Però chiaramente mi sono messo in politica, lo ripeto fino alla nausea, perché ho creduto in Berlusconi e continuo a crederci nonostante tutte le illazioni, anche le stupidate che spesso e volentieri dite voi. Ma noi non diciamo niente. No, ma noi non diciamo nulla, noi siamo stupidate. Tanto fra poco siamo di nuovo in diretta su TGCOM24, tanto per intero. Ah sì? No, io mi sono sintonizzato, ma non vedo niente. Aspetta un attimo. Vedo tutte delle bollicine, vedo delle... Almeno un rotto il televisore, dagli un pugno sopra. No, amore, c'è scritto Sky. Ma c'è la pubblicità, ma che c'entra ma Sky? Ma chi c'entra Sky? TG 24 con il signor Giordano. Ma come? C'è scritto Sky Radio qua. Devi andare, no, devi andare sul canale, canale 51 del digitale terrestre. Ah, canale 51, sì, canale 51. Perché io sento soltanto le vostre vociacce. Ma... allora, canale 51. Canale senti, 51. Renga. Sì. Tu comunque hai dato prestigio al festival, sai? Vabbè, adesso non fare la solita slecchinata. Mi usano sempre per quello, in realtà. Non hanno fatto vincere uno per sbaglio, ma poi io do prestigio, do prestigio. Ho avuto il sospetto, Sì. Poi sì, è vero, ma io lo so. Io usano proprio per, come dire, dare senso a vittoria altrui, capisci? Beh, cioè, ma no, cavoli, ce la venga. In che perché senso? Se cioè, mi usano che come specchietto della lodole, non ho capito. No, non solo, sono quello che dà credibilità al tutto. Va bene, traffico, torniamo subito, fra poco per chi vuole, quelli che stanno alla radio restano alla radio, per chi vuole TG Com 24. Bene, bene, siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara, ultima parte. Abbiamo Iva Zanicchi in collegamento con noi. La signora Iva, che ha proposto per il nuovo partito di Berlusconi un nome molto affascinante, Avanti Tutta. Avanti Tutta. Che si può dire dopo? Non Avanti Tutta. Come? Ma no? Avanti dove poi Zanicchi? Avanti su. Tutta. Tutta. Avanti Tutta vuol dire avanti con un uomo capace. Chi è? È stato anche sfortunato. Vabbè, basta però, Avanti Tutta con un altro, no? È giusto che ci sia Monti con il suo governo di testi, stanno lavorando bene, dovranno fare di tutto e di più perché sono stati messi lì apposta, dopodiché andiamo a votare, andiamo alle elezioni, rivincerà Berlusconi perché la gente sembra crede. L'analisi di Pane Bianco, anzi che quella della signora Zanicchi. Avanti tutta. Scusi un attimo, signora Zanicchi, però mi dica la verità, lei che è all'Europarlamento, il fatto che oggi è arrivato Monti è un'altra cosa, diciamo la verità. C'è un clima diverso. Voglio dire, certo che è un'altra cosa. Alla casa Bruxelles, lì io l'ho incontrato Monti. Non io, abbiamo incontrato Monti. Sì, però rispetto a Berlusconi. Abbiamo incontrato meno di una settimana fa. Però rispetto a Berlusconi. Fa. Oggi è Bruxelles, lui c'ha la casa lì, eh. Beh, ho capito. C'ha la casa. Che c'entra che c'ha la casa? Lui predilige Bruxelles perché gli è molto familiare. Però vuol dire rispetto. Che è stato commissario per 8 anni, però... conosce tutti, è ben visto, è un uomo intelligente, un uomo colto, un grande politico. Politico, voglio dire, spero di no. È un grande uomo. Ma voglio dire, ci facciamo una grande figura con Monti. Ma nessuno anzi io mi auguro spero anche che si possa un domani mettere in politica, che possa essere votato e dirigere questo paese, perché no? Però è importante, siamo in democrazia, che uno che governa proprio per la democrazia stessa venga votato. Certo, ma avanti mi dica un altro nome, la vedo in forma. Visto che tu ami molto la Lega, Tirreni Nans potrebbe essere. Vale solo al nord. Non è che può fare. No, hai ragione, perché Berlusconi è internazionale, non possiamo limitarci al nord. Va bene, allora vi ho chiamato per dare un voto alle canzoni, a 5 canzoni che sono state le più votate. La nostra gara. Sigla. Sigla, sì, che Sanremo, quelle dei politici. Dei politici. Quale Sanremo? Sigla. Oh mamma mia. Arginare il mare. Belisario che si è offerto volontario. Ego la nostalgia del me Milan. Politicanti, le ugole di palazzo. Bene, allora bene. Voglio un voto secco da 1 a 10, un voto secco da 1 a 10. Partiamo con Luca Paolini, Lega Nord, fantastico secondo me, questo bravo. È il mio giudizio. Luca Paolini, anche Lega Nord. Della Lega, bravo. Che c'entra che è della Lega? Che canta Yesterday. Ecco. Via. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. Voto secco, voto secco. Iva. Sì, l'inglese è così così. L'intonazione buona l'ha presa un po' veloce il ragazzo. Però la sufficienza sicura. Suonava lui la chitarra, certo. Francesco, sì, suonava lui. Se si accompagnava lui, direi anche un 7, dai. Bravo. Quest'altro è terrificante, però lo amiamo moltissimo. Francesco Barbato, l'uomo delle telecamerine. Dell'Italia dei Livori. Ah. Il deputato delle telecamerine. Mala femmina. Mi sono attanato quello che fatta a me, stom t'avesse accisa, e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra femmine come a te non c'hanno sta panoma onesta come a me. Femmena, in bocca la chiusura. Cusina, femmena. Canta Iva. No, dai. Guarda che è partito. Com'è? Non è partito benissimo. Però non è partito dopo proprio. Si è ripreso, ragazzo. Quant'è il voto? 4. 4. meno male che si è ripreso, Zanicchi. Concordo con Iva sul 4. 4. Vai, 4. Poi questo buono, no, che ultimo, 5, no. Devo andare veloce. Adragna. Sì, è totalmente andato. Penso sempre. Poi ti faccio ascoltare un altro giorno quello che gli ha detto, non mi ricordo chi, 3-4 giorni fa. La Santanchè, una cosa spettacolare. Voglio ascoltare. Dopo, non c'è più tempo. Adragna, Partito Democratico. Che bella foto il signor Renga hanno messo di Giconde. Benedetto Adragna. Bello. Ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come far ridere adesso, pensarti come un gioco, e capendo che ti ho perso, ti scatto un'altra foto, perché piccola potresti andartene dalle mie mani, e di giorni da prima lontani saranno anni, e ti scorderai di me. Quando piove profili e le case ricordano te. Non è male però, non è male. Mi piace. C'è un'idea. Vai, Iva, quanto? È del PD? Sì, è del PD. È del PD? No. Ma che c'è? Mi piace, ma gli do anche 9 a questo qua. È buono. Vai, Francesco. No, un 7 e mezzo. Bene, meno male, dai. Guarda, hai una persona che Iva conosce molto bene, Tiziano Motti, UDC, europarlamentare. Via. Qua siamo al top, eh? Siamo al top, eh? Siamo al top. Voglio una vita maleducata. Di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto. Che ride, sorrenda. Il livello di cazzaraggine dei nostri politici è veramente assurdo. Non abbiamo le motti. Sia rispettoso. Senta che bravo che è. Senta qui, senta ora. Senta qua, è difficile. Voglio una vita. Occhio, attenzione, ora aspetti, Renga. Che non si sa mai. Senta l'intensità, allora le motti. Senta ora. E poi ci troveremo come sta. Siamo al top qui, eh. Vai, Iva, voto, Iva. Oh, sono toccato di motti. Guarda, lui è voto. Fare il cantante. Io 11 a motti. Voto. 11. Ma non c'è 11, 10. 10. Francesco, tu che sei più un po' poco personale, ma il tempo che ha, come dire, dedicato alla cosa, io anche qui un 8 e mezzo glielo do. 8 e mezzo. Allora, ultimo. Lo senti che sembra Vasco Rossi. Ultimo. Olga D'Antona, senti questa, l'unica donna, Olga D'Antona, Partito Democratico. Strepitosa. Sentite. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. gente ci crede. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo. Allora, voto finale su Mercedes Souza, vai. No, Olga D'Antoni. Iva, Olga D'Antoni. No, dai, super presente. Come? No, è bravissima, mi fa rabbia. Vai. Io ho mio fratello qua vicino che dice è più brava della Consoli. Pensa a te. Vai, quanto? E che cacchio gli do? No, beh, 8.5. 8.5, Francesco? Ma va a caso proprio, io 7, no, 7. È strettino. Sette. Domani proclamazione del vincitore, un abbraccio a tutti, grazie. No, Iva. Renga, ciao. Renga. Che state bene, siete belli in televisione. Mi saluti la signora Ambra, signor Renga. Va bene, fermo immagine. È malato di mente. È malato di mente, scusa. Sì, veramente, ma guarda che ce la porto un giorno, vedrai. Oh, a domani 18.30, anche su TG Com 24. Arrivederci. Ciao. La Zanzara.